la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 59 secondi qui da Milano, vi saluta e vi ringrazia come sempre Oscar Giannino per l'ascolto in diretta o in podcast e vi ricorda l'indirizzo per chiedere di intervenire, segnalare temi, fare domande e la versione di Oscar @radio24.it. La trasmissione di oggi è il seguito, e vi avevo già annunciato ieri, obbligato del tema che abbiamo iniziato a trattare ieri, perché eravamo arrivati a un punto in cui moltissimi di voi con gli sms e con le telefonate intervenivano per dare opinioni o soprattutto per formulare domande. Dove siamo partiti ieri? Ci siamo occupati di globalizzazione, quindi ripeto la domanda 800240024 per intervenire. Qualunque sia la vostra opinione sulla globalizzazione, intervenite se lo ritenete, potete farlo, siete i benvenuti per dirci la vostra opinione. Fa bene al nostro paese, ce ne vuole di più, oppure ha ragione chi chiede di mettere un freno per difendere l'occupazione e il reddito che a suo giudizio è minacciato dalla globalizzazione e dall'apertura ai mercati esteri, alla concorrenza con le produzioni di altri paesi, altri sistemi produttivi. Ha ragione chi chiede più dazi, la rottura dell'Unione Europea, facciamo da soli, mettiamo una barriera, difendiamoci, sia lo Stato a decidere come tutelare meglio. Magari c'era anche qualcuno ieri che collegava al tema la moneta unica, usciamo dall'euro, mettiamo una valuta che torni solo nostra, e a quel punto decidiamo, perché così è a quel punto, i depositi in fruttiferi per chi importa o esporta questo o quello, come era ai tempi della lira, per ridurre sotto la mano dello Stato l'eventuale deficit di bilancio dei pagamenti e così via, perché poi sapete, dazi e protezionismo portano tutta una serie di conseguenze sull'eventuale valuta nazionale, sull'eventuale set di misure attraverso cui lo Stato a quel punto riduce a sua discrezione la libertà dei capitali, la libertà dei beni e dei servizi. Allora, ieri il tema era partito dal rapporto di cui vi riassumo in un solo minuto la sintesi, l'indice delle globalizzazioni che presentato ieri in un convegno a Lombarda dall'Istituto Bruno Leoni. Lo trovate in dettaglio sul sito dell'Istituto Bruno Leoni. E questo rapporto ha adottato una metrica per la comparazione tra 39 paesi, sommando i paesi del G20 e alcuni, i maggiori paesi dell'Unione Europea. In questa metrica, per valutare nel tempo, in termini comparati, l'apertura al commercio mondiale dei 39 paesi, il set di questi strumenti è composto di un triplice pilastro di indicatori. Il primo è dato dall'apertura complessiva al commercio mondiale, quindi fatto dalla somma di importazioni ed esportazioni di un paese sul totale, in percentuale al suo PIL. La seconda batteria di indicatori è quella che misura gli investimenti diretti esteri, tanto quelli dei paesi stranieri nel nostro paese quanto quelli negli altri paesi delle imprese italiane. E il terzo set di indicatori è quello relativo alla connettività con le reti della conoscenza, quindi mettendoci dentro accesso a internet, telefonia fissa, telefonia mobile, con dei pesi diversi, per così dire. La sintesi estremissima di questa comparazione internazionale, fatta assumendo come riferimento la distanza di ogni paese da quello con lo score più basso, con i voti più bassi, con le percentuali più basse, vedeva su 39 paesi nel 2015, cioè l'anno relativo ai dati più recenti su cui poter lavorare, l'Italia 17esima su 39, con un andamento di miglioramento negli anni alle nostre spalle che negli ultimi anni è un po' frenato. E perché questo 17esimi su 39, con Irlanda invece alla testa della graduatoria dell'indice di globalizzazione, perché noi andiamo non bene, benissimo nel primo set di indicatori, cioè quello delle esportazioni, record nel 2016 e record anche di realizzazione di surplus commerciale, oltre 400 miliardi di esportazione. Andiamo male invece negli investimenti diretti esteri in Italia, una media non superiore all'1% del PIL annuale, e andiamo male in questo settore per via della burocrazia, dei tempi della giustizia che danno incertezza al rispetto dei contratti e al fisco essenzialmente. E andiamo complessivamente malino anche nel terzo set di indicatori, quello della connettività con le reti della conoscenza. Nel rapporto danno numeri che testimoniano come l'aumento della globalizzazione negli ultimi 20 anni, in particolare poi post ingresso nel 2001 della Cina nel WTO, ha prodotto in termini oggettivi un innalzamento molto rilevante del PIL pro capite espresso in dollari a parità di potere d'acquisto e a prezzi correnti, superiore al 50% per capirci, ma siccome il PIL pro capite è una misura, per così dire, alla trilussa, la cosa che conta di più è che nel complesso planetario e soprattutto per gli effetti nei paesi meno avanzati 20 anni fa, è diminuito un indicatore che serve alla misura della distribuzione del reddito, quindi un indicatore, in questo caso il coefficiente di Gini, che è uno di quelli attraverso cui si misura la più o meno elevata equità nella distribuzione dei redditi. Il coefficiente di Gini complessivamente scende, ma scende perché la diminuzione del fattore di dispersione del reddito, quindi la concentrazione nel reddito solo nella parte alta della piramide dei redditi mondiali, diminuisce, ma diminuisce soprattutto in termini più significativi nei paesi, diciamo così, emergenti, nei paesi che erano meno avanzati. Ma il punto che vi ha scatenati invece, su cui torniamo oggi, è quello degli effetti della globalizzazione nei paesi più avanzati. Perché, come è ovvio, l'apertura al commercio mondiale significa nei paesi più avanzati, in diversi settori, a seconda delle specializzazioni nazionali, a minor valore aggiunto, dove la concorrenza è sul costo, perdere imprese e occupati, perché bisogna spostarsi nella parte alta della catena del valore e del capitale umano impiegato. In quel caso non è affatto detto che nel medio periodo il saldo sia negativo, perché si aggiungono imprese, settori e occupati nell'alta catena del valore aggiunto e nella catena dei servizi a propria volta ad alto valore aggiunto per imprese a maggior valore aggiunto. E su questo molti di voi hanno iniziato a dire: no, nel caso italiano non è vero, perché questo riguarda paesi che hanno una taglia dimensionale di impresa come quella tedesca. Noi abbiamo il 95% delle nostre imprese che sono piccole o piccolissime, e quindi salire nella catena si dimostra falso. Se andiamo a vedere quante imprese sono, tra virgolette, sparite nel nostro paese negli anni di crisi. Io ho invitato tutti, continuo a farlo anche oggi, a consultare il rapporto sulla competitività dei settori produttivi edizione 2017 dell'Istat, che è uscito giovedì di 2 settimane fa. Quindi, prima cosa, la vostra obiezione era: no, andiamo benissimo nella meccanica, noi la meccanica fa 200 miliardi di quei 400 miliardi di export, però per non perdere noi abbiamo bisogno di qualche tutela, perché non tutti, o comunque non una misura sufficiente delle imprese italiane, riesce a salire nella catena del valore. Uno. Altri di voi dicevano: quando si sta nella catena di forniture, chi comanda e chi conta davvero è la parte alta della filiera delle imprese. Classicamente moltissime nel nord manifatturiero del nostro paese sono in filiere alla cui vertice ci sono molte specializzazioni della manifattura, della meccanica, eccetera eccetera, delle imprese tedesche o multinazionali. E in quel caso, dicevate molti di voi, ragazzi, si può finire fuori perché non si è in grado di adempiere alla rapida velocità della richiesta di nuove commesse, si finisce fuori e a quel punto inizia la caduta, cioè non mica è un processo autosostenibile. Terzo, molti di voi dicevano, per reggere a un aumento del valore aggiunto necessario come quello della manifattura, inciso, guardate che però nell'industria, se leggete quel rapporto Istat, vedrete che l'andamento della produttività multifattoriale negli ultimi anni, 2011-2014, è a segno positivo, è praticamente il 2% l'anno, mentre invece è quasi del meno 2% l'anno la produttività multifattoriale nel settore dei servizi. È lì che abbiamo un problema nel nostro paese. Però voi dicevate anche, oltre a queste prime due osservazioni, una terza osservazione: la quantità di capitale necessario, in questo caso quindi stiamo parlando della stretta finanziaria, la stretta da parte delle banche alle piccole imprese, non è disponibile. Quando anche l'imprenditore, il piccolo imprenditore e i suoi collaboratori volessero provarci, nella realtà dei fatti siamo ancora strozzati dagli effetti della stretta bancaria, dei crediti deteriorati. E alcuni mandavano sms dicendo, persino la BEI l'altro ieri diceva che nel 2015 e 16 uno su 10 degli imprenditori che chiedevano impieghi alle banche per investimenti otteneva risposta negativa. Cioè non è vero quello che dice l'ABI, che la colpa del segno meno che resta rispetto al pre-crisi negli impieghi alle imprese si deve al fatto che sono gli imprenditori che non domandano e non investono. È verissimo che c'è stata un calo a doppia cifra gli investimenti nel nostro paese, ma i dati e l'esperienza, moltissimi di voi dicevano, ci dice che la banca continua a dirci no, io gli posso proporre tutto quel che si vuole, ma mi dice no. La somma di queste tre osservazioni: primo, le nostre specializzazioni non reggono rispetto alla perdita di concorrenza di occupati e imprese che non ce la fanno in una globalizzazione così avanzata perché l'impresa è piccola. Secondo, chi fa parte di catena del valore alla testa c'è chi comanda e se stai sotto rischi di finire fuori e non ce la fai comunque. Terzo, il problema del credito erano il core delle obiezioni che venivano da voi espresse ieri e non abbiamo avuto tempo per affrontarle. Allora, proprio per questo mi sono detto facciamo questa seconda puntata in cui affrontare questo aspetto qua, che è quello decisivo rispetto alla maggioranza di voi percentualmente che ha dei dubbi molto forti sulla globalizzazione, per capire cosa ci dicono i dati e la realtà rispetto a questi tre grandi, pesanti interrogativi. Ci stiamo qualificando con la parte alta della nostra produzione, con il nostro export, ma nel complesso però ci sono effetti, e gli effetti di perdita di imprese e perdita di lavoro significano perdita di reddito, quindi come si fa ad affrontare il problema dei 3 milioni di disoccupati, di tassi di occupazione ancora troppo bassi e così via. Allora, con noi oggi per tentare di darvi delle buone risposte, molto più di me, a queste domande che ieri sono uscite fuori a bizzeffe, il professor Carlo Altomonte. Il professor Carlo Altomonte insegna economia dell'integrazione europea alla Bocconi, da anni pubblica dati, analisi, papers, approfondimenti proprio sulle catene del valore in cui stanno le imprese italiane, quindi ne esamina continuativamente l'evoluzione e i risultati, e mi sono detto pochi sono come lui in grado di darvi delle risposte, in grado di risolvere almeno qualcuno dei punti interrogativi che ieri ci avete manifestato. Grazie professor Altomonte di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, lei ha capito quali sono le tre obiezioni. Io mi affido a lei per iniziare dalla prima e per tentare di dare delle risposte a seconda di quello che i dati ci dicono, insomma. Ma innanzitutto complimenti agli ascoltatori e alla vostra capacità di sintesi, perché in effetti i tre problemi evidenziati sono quelli che emergono anche dai dati che stiamo rilevando, cioè il tema della specializzazione cost intensive di un pezzo di industria italiana anche a causa della dimensione ridotta delle PMI e quindi il fatto che si soffra di più rispetto alla concorrenza dei mercati emergenti, il fatto che indubbiamente il nostro posizionamento strategico nelle catene globali del valore è intermedio, non è alla testa nella parte ad alto valore aggiunto che spesso giustamente è in Germania, e il fatto che la crescita poi richieda una capitalizzazione elevata che spesso in Italia è frenata al credito bancario. Sono tutti e tre problemi veri, noti, veri e confermati nei dati. Ovviamente dobbiamo capire cosa fare, e il tema chiave innanzitutto l'atteggiamento chiave è secondo me non leggere il messaggio come un classico problema di chiusura, ma piuttosto di opportunità da cogliere, nel senso che da quando il mondo è diventato globale e segno meno nell'economia mondiale non c'è più stato, nonostante anche la grande crisi del 2009. L'economia mondiale cresce anche quest'anno al 3-3,5-4% l'anno e non crescerebbe così tanto se non ci fosse questa, diciamo, strutturazione dei rapporti globali e questa apertura del commercio internazionale. Tra l'altro, le ultime cifre pubblicate avantieri da una serie di istituti di ricerca ci mostrano come nel 2016 il commercio mondiale ha ripreso a crescere alle velocità che conoscevamo note prima della crisi, quindi quasi il doppio del PIL. E che erano prima rallentate, scendendo molto l'andamento del PIL. Era un problema che aveva interrogato molto, soprattutto quegli economisti che dicono stagnazione secolare, eccetera, eccetera. Esattamente, io ho fatto un po' una ricerca su questo, mi ero accorto che in effetti la risposta che avevo dato, ogni tanto gli economisti ci azzeccano con le previsioni, ho detto: guardate, questa è una risposta ritardata della crisi, perché in effetti si stanno rimodulando tutta una serie di catene globali del valore, quindi come le catene globali del valore reagiscono con un ritardo di rimodulazione, questo probabilmente ci porta a un ritardo nella ripresa del commercio, cosa che in effetti stiamo vedendo. Però lei lo sa alto monte che i nostri ascoltatori dicono: sì, crescerà il mondo e cresceranno molti dei nostri concorrenti, ma noi no. No, infatti. Vediamo che cosa si può fare. Allora, secondo me ci sono due temi fondamentali. Il primo è capire che non possiamo avere, lei prima accennava al pollo di Trilussa, e come il pollo di Trilussa non possiamo avere una sola politica industriale in questo paese. Noi dobbiamo fare una politica industriale per le imprese che ce la stanno facendo, e non sono poche. I 400 miliardi di surplus che citava prima, il più 2% di crescita della produttività nel settore manifatturiero, dimostra che una parte importante del paese sta agganciando, è riuscita ad agganciare la sfida globale, e è quella che poi in realtà sta tirando la crescita del paese, perché poi sappiamo bene che un bel pezzo di crescita italiana, per quanto piccola, comunque ampiamente tirata dal mercato esterno. Quindi quella politica industriale, quel tipo di imprese devono essere servite da un tipo di politica industriale, e su questo abbiamo il pacchetto di incentivi industria del governo, industria 4.0 e quant'altro. E invece io quella che chiamo una politica industriale di accompagnamento invece alla trasformazione di quelle imprese che, avendo come destinazione principale il mercato domestico e o specializzazioni ad alta, diciamo, intensità di costo e o relativo poco accesso ai mezzi finanziari, invece faticano e faticano di più. Allora, prima di prendere questo, che è poi il punto fondamentale, un minuto sulle informazioni sul traffico. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presento. La versione di Oscar. Anche oggi maggioranza dei messaggi di chi dice: state straparlando, l'Italia è ferma, dazi, ci vogliono tutele. Uno, due, di chi dice: non tutti possono diventare giganti aerospaziali. Infatti assolutamente no, se aveste idea di quante sono migliaia le piccole, piccolissime imprese anche nelle catene del valore internazionale, non ragionereste così. Bisogna vedere un po' i dati, per questo dico: guardate un po' i documenti. Non poi moltissimi dicono sui servizi del mercato domestico: ah, la Bolkestein. Cosa vuol dire la globalizzazione? La Bolkestein? Mai. Ma io lo so che la maggioranza di voi la pensa così. Allora, professor Altomonte, avevamo il punto di come si accompagnano le imprese piccole o chi sta nella parte bassa delle catene del valore. Assolutamente, confermo anche il fatto che gran parte delle imprese di successo tedesche non hanno più di 50 dipendenti nelle catene globali del valore, però hanno tre cose queste imprese tedesche che sono assolutamente comparabili come proprietà familiare e come dimensione a quelle italiane. Uno, sono imprese innovative, fanno molta più ricerca e sviluppo di quanta non ne facciano le nostre imprese piccole. Ne stiamo sempre parlando, diciamo, della parte, tra virgolette, perdente della globalizzazione. Quindi quelle imprese lì, a parità di dimensione e a parità di proprietà familiare, sono imprese innovative, fanno molta più innovazione di quanto non ne facciano le nostre piccole e medie, che sono, diciamo, costi intensi. Quindi assumono ricercatori, assumono personale qualificato dalle scuole di formazione con cui lavorano a stretto contatto, dalle università, e innovano, e quindi in qualche modo si tirano fuori dalla spirale della concorrenza di costo e di prezzo. Due, sono imprese che hanno una proprietà familiare ma non hanno la gestione familiare, cioè nel loro board c'è sempre qualche componente esterno, tipicamente un componente esterno che viene alla professione, che consente loro che parla inglese e che consente loro di avere l'aggancio alle catene globali del valore. È un solo dato su tutti. del fatto 100, il totale delle imprese familiari in Italia e in Germania, i numeri sono più o meno simili come totale di proprietà familiare, l'80% delle imprese italiane familiari ha un board fatto al 100% da membri familiari, mentre in Germania questo numero è del 30%. Terzo punto, le imprese tedesche non usano solo il credito bancario, il modello bancario non può più, per come sono evolute le cose nel post-crisi, supportare investimenti ad alto rischio, comunque a scarsa collateralizzazione, come sono quelli tipici di chi vuole crescere nel value chain, quindi le imprese tedesche fanno ricorso al mercato, finanziamenti al mercato, prodotti diciamo finanziari, bond, piuttosto che quotazioni in borsa. Il programma Elite in Italia sta portando tantissime imprese di piccola e media dimensione, accompagnandole alla quotazione in borsa, ma le obbliga al cambio di governance, e questo evidentemente è un punto di resistenza forte dei nostri imprenditori, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, poi fondamentalmente. Quindi bisogna cambiare testa, bisogna decidere di crescere, decidere di cambiare governance, decidere di avere accesso al mercato e usare queste risorse per fare innovazione, in questa sequenza che vi ho detto. Questo ci raccontano in maniera abbastanza inequivocabile i dati. Sentiamo Andrea da Trento che ci chiama. Andrea, prego. Sì, buongiorno Giannino, al professore. Ma io sono di sinistra e purtroppo dalla mia parte sta la maggioranza di quelli che si lamentano. No, guardi, è trasversale, posso dirle. Vedendo gli sms di qua, trasversale, possono votare 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma oramai è trasversale questa opinione molto forte. Che è assolutamente sbagliata. Cioè, il grande problema del nostro paese è la domanda interna, numero uno, come diceva poco fa il professore. Il secondo grande problema è l'investimento in innovazione, la capacità anche, io lavoro soprattutto con le start-up e proprio le porto, lavoro per un ente europeo che le porta all'internazionalizzazione, e quel grande problema che abbiamo noi in Italia è l'assenza di venture capital. Cioè, noi non abbiamo capitale di rischio. Sentiamo cosa ci dice il professor Altomonte su questo. Ma questo è vero, sicuramente è vero, però venture capital in Italia è molto molto basso, non è così forte neanche in Germania e in Francia, a guardare bene i numeri. Il punto interessante è che tuttavia le imprese che hanno venture capital in Germania e in Francia poi riescono a fare start e poi up, quindi riescono a crescere. Da noi restano start, in qualche modo. Qui c'è un problema, secondo me, di eccesso di regolamentazione sui settori dell'accesso al mercato, c'è una vigilanza che in qualche modo, come sempre, mette un po' troppi lacci e laccioli allo sviluppo di questo tipo di fonti di finanziamento, e lì forse dobbiamo lavorare sicuramente. Qui forse il tema è più, e non ne abbiamo parlato fino adesso, i classici problemi, burocrazia, eccetera. Certo. Però questo è un tema, in questo settore specifico, è un tema sul quale dobbiamo riflettere, assolutamente. Ma io le faccio una domanda con l'ultimo minuto. Si può immaginare che tutto questo lo fa solo la manifattura, la farmaceutica, eccetera, eccetera? Comunque stiamo parlando, 211.000 imprese, dice l'Istat, internazionalizzate, seppure a tre diversi livelli. C'è l'eccellenza, ci sono quelli che importano ed esportano perché sono in catene, quindi fanno un lavoro di input intermedio, ci sono quelli che si limitano a esportare solo un po'. Però detto tutto questo, lasciando poi i servizi sul mercato domestico iperregolamentati e coperti, chiusi alla concorrenza, ha senso? No, non ha senso ovviamente. Due dati però. Uno, l'80% del valore aggiunto delle esportazioni lo fa il 20% delle imprese in media nei paesi più avanzati. Quindi in realtà paradossalmente ci basta un settore manifatturiero con una coda di destra molto competitiva per far tanto. Tuttavia a me la distinzione manifatturiero e servizi sta sempre più stretta, soprattutto al momento in cui andiamo in un contesto di industria 4.0. Esatto. Non si capisce molto. Quindi, che dalla progettazione all'esecuzione reinternalizza ed esternalizza tutto quello che eravamo abituati a considerare dentro o fuori i perimetri della classica impresa manifatturiera. Allora, noi abbiamo sperato di darvi qualche elemento di riflessione, spero di avervi fatto cambiare idea, però esistiamo qua per farvi riflettere sui numeri. Grazie al professor Altomonte. Continuate con Radio 24, Focus Economia, Sebastiano Barisoni, e con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 a Tenterio 2.